Inutile a dirsi è meglio a farsi che a limitarsi nei propri spazi, oppure osare un po' di più. Inutile tentare di fuggire da questa imperturbabilità che mi avvolge e mi sconvolge. Bloccare ogni slancio emotivo che cerca di prendere vita e rimanere fermo tra i miei perché. In questo limbo sentimentale, mentale, sociale, innaturale, che è la mia atarassia, la mia atarassia, la mia atarassia. Tutto mi sembra un film. Inutile muoversi e poi pentirsi, o lasciarsi trasportare tra mille vizi, o chiudersi in questo nulla. Inutile cercare di immaginare, di inventarsi modi di fare, di leggere il mondo nel modo usuale per gli altri. Bloccare ogni slancio emotivo che cerca di prendere vita e rimanere fermo tra i miei perché. In questo limbo sentimentale, mentale, sociale, innaturale, che è la mia atarassia, la mia atarassia, la mia atarassia. Tutto mi sembra un film. Una notte la luna sale in una stanza, i baci vicini, la luce che salta, le crisi, i progetti e l'età che avanza, i sogni rimpianti ed un mutuo in banca, un frigo, una panda, una casa in campagna, un figlio, due gatti, una ninna nanna. Questa è la vita degli altri che passa ed io che resto a guardarla. Come se fosse un film.